Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'argomento di oggi, l'argomento di giornata, è la mappa del tifo italiano, tracciata anche quest'anno da Demos per Repubblica. Conferme, sorprese, nuove linee di tendenza, numeri ricorrenti, altri sorprendenti, affidati, come da 5 anni a questa parte, a Ilvo Diamanti. Buongiorno professore. Buongiorno. Dunque, mi sembra che il primo dato della sua ricerca, sono tanti i dati interessanti, ma insomma il primo che emerge e che registra anche una, come dire, una variazione abbastanza sensibile rispetto allo scorso anno, racconti di questa flessione del numero di appassionati in senso lato, ma contemporaneamente di un aumento del numero di teste calde, seguo la sua dizione. E allora mi domando se stiamo parlando di calcio o di politica, per esempio. Ma è così, non è tanto che si tratti di teste calde, nel senso che io sono in quella... Se devo catalogare me stesso in quella tipologia, io sono nei tifosi caldi. Poi ci arriviamo, difetti. No, ma non è necessario. Non ci arriviamo, va bene. Va bene, non ho nulla da nascondere. Ecco. È che il mondo, in Italia in particolare, è diviso in due dal punto di vista del rapporto con il calcio. Sì. Proprio in modo molto netto. Chi se ne frega e chi invece... lo segue, e chi lo segue, questa è ormai una tendenza irreversibile, non è che lo segua in modo distaccato, lo segue in modo, usiamo questo termine, appassionato. Allora, se l'anno scorso e fino all'anno scorso abbiamo assistito a una progressiva crescita di coloro che si dicono tifosi, sì, cioè tifosi di calcio in senso lato, e l'anno scorso in realtà i tifosi erano arrivati a superare la metà, cioè quindi erano un po' di più della metà, il 52%, in un anno abbiamo assistito, ed è la prima volta, a una brusca contrazione, cioè oggi, quest'anno a dirsi tifosi sono il 45,3%, e quindi il 55% fanno parte dell'altra parte, dell'altra metà del mondo, che oggi è più di metà del mondo, coloro che non si occupano e non seguono il calcio. La novità è che tutta ulteriore è che la contrazione, cioè la differenza, la fa quella fascia di persone che noi abbiamo definito tifosi tiepidi. Cioè coloro che con una scala da 1 a 10 si dicono sì, tifosi, ma non troppo, insomma, cioè, seguiamo il calcio, il moderato, esatto, moderati, abbiamo messo i tiepidi perché appunto però poteva andare moderati, e che in questo caso l'analogia con la politica che ha utilizzato lei oggi, nel momento in cui adotta il termine moderati, non è che io sento molti moderati adottare dei toni estremisti che non so più bene chi siano i moderati, certo. Per cui ho sentito cose terribili dagli sedicenti moderati, per cui preferisco tiepidi. I tiepidi erano il 12%, sono scesi del 3-4%, e in realtà chi sono coloro che sono cresciuti maggiormente? I tifosi caldi, non i militanti, anche quelli fermi al 19%, ma i tifosi caldi sono cresciuti del 3-4% a loro volta, sono il 17%. Cioè, oggi questo mondo, il nostro mondo, il nostro paese, la popolazione è divisa in due: tifosi e non tifosi, non persone che seguono il calcio e persone che le seguono. Se uno segue il calcio è un tifoso, senza mediazioni. Per cui è vero quello che dice lei, somiglia alla politica, però probabilmente è vero che è avvenuto un processo mimetico al contrario, la politica ha assorbito i caratteri del tifo calcistico, nel senso che alla politica ci si avvicina sempre in modo sempre più distaccato, c'è molta indifferenza e c'è molta come la vogliamo definire, antipolitica, sì. Antipolitica, cioè si sono più coloro che ce l'hanno con qualcuno, un partito, un leader, che non coloro che sono per qualcuno. Esattamente. Qui sono vere tutte e due le cose, nel senso che metà sono tifosi, e sono tifosi molto, molto militanti, molto impegnati, ma allo stesso tempo c'è metà di coloro che si dicono tifosi che ce l'hanno con un'altra squadra, una sola, capisce? Cioè, sì. È come il bipolarismo all'italiana, certo. Dove tutti sono con Berlusconi o ce l'hanno con lui, e qua tutti ce l'hanno con una squadra, si tifa contro quasi quanto si tifa per. A favore. Io direi che non si fermano qui le analogie con la politica. Vorrei dare solo una spiegazione intanto, in prima certo. Battuta. La spiegazione è che, bene o male, la politica nel nostro paese, nel dopoguerra, ha sempre costituito un fattore di socializzazione. Sì. I partiti di massa, cioè soprattutto la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, erano partiti comunità, alcuni dicevano partiti chiesa, sì. Generavano appartenenza, quasi fede e anche socialità, erano presenti nella società con le loro organizzazioni, le loro associazioni. Un noto, importante politologo francese scrisse dalla culla alla tomba, cioè ti accompagnavano sì. Dappertutto. Oggi non c'è più. Direi che in una certa misura il bisogno che comunque abbiamo di appartenenza, di identità, è stato progressivamente assorbito dal calcio. Cioè oggi la fede nel calcio sostituisce nelle squadre di calcio, ha in parte surrogato e sostituito. Surrogato. È inutile che faccia chiaramente come questo non avviene per caso, è almeno 15 anni che almeno c'è un leader politico che viene dalla televisione e dal calcio, sì. E di fatto, come dire, ha in qualche modo generato questa doppia identità, ha chiamato le sue sezioni club. Guarda, sì. Non sto dando giudizi di valore, sto osservando questo, e ha di fatto identificato se stesso anche come il presidente, ma di cosa? Della squadra, del governo, di tutto. Quindi, e in realtà ha diviso, in bene e in male, non do giudizi, il mondo, il nostro mondo in due, e queste appartenenze si sono assolutamente, come dire, sovrapposte, tant'è vero che oggi noi vedo che ci sono i club dei tifosi anche al Parlamento, ma come in no? realtà come no? E in realtà però non ce n'è bisogno, vedi, leader no. allo stadio, certo. Ed è questo però secondo me la principale spiegazioni, cioè noi abbiamo assistito a una ormai surrogazione del calcio a ciò che prima veniva dalla politica e da altre appartenenze, per cui le identità sono bianconere, rossonere, ovviamente nerazzurre, certo. Oppure azzurre nel senso o giallorosse, sì, sì. E ciascuno è in curva. È in curva quasi tutta la vita, e attraverso la televisione tutti i giorni, oggi tutti i giorni. Guardi che il linguaggio televisivo è importante. Credo proprio che sia decisivo. Io la interrompo un istante perché abbiamo le nostre scadenze. Segnalo agli ascoltatori che poi adesso stiamo ascoltando le riflessioni, le disamine del professor Diamanti sulla base di questi risultati. Poi questi numeri li daremo più tardi con la collaborazione di Fabio Bordignon, che ha materialmente curato e redatto questa indagine. Torniamo in compagnia di Ilvo Diamanti e di questa sua ricerca periodica, annuale, stagionale. La facciamo all'inizio del campionato. Insomma. Certo, all'inizio per definire com'è la mappa a quel punto. Poi, esattamente. può avere delle evoluzioni nel corso dell'annata, ma insomma quelli sono i numeri da cui si parte. Esatto. Risultati. Ad esempio l'Inter negli ultimi anni, la Juve resta sempre la prima col 30% di cultori. Sì, tifosi, mettiamolo. E poi ma Inter, Juve e Milan da soli fanno i due terzi, certo, i due terzi dei tifosi, gran parte degli odi reciproci. Tra i tifosi l'Inter ha superato il Milan negli ultimi anni proprio per i risultati che ha ottenuto, per le vittorie. Perché si tifa anche per vincere, insomma, non per perdere, dal punto di vista sociale, no? In linea di massima. Dunque, c'era un altro spunto che tra i tanti che lei ha suggerito in questa ricerca che mi ha colpito, e cioè che all'interno di dell'appartenenza è sparito il come, una volta era importante partecipare, ma dobbiamo tornare indietro di un secolo e fischia, poi è diventato importante vincere, magari stando anche badando alle modalità. Oggi mi pare che sia importante, che sia decisivo vincere e non importa più molto come. Cosa che ci siamo detti io e i miei colleghi quando abbiamo visto i dati, poi Bordignon le darà magari appunto le precisazioni al proposito, sì. Però per capirci, insomma, la maggioranza dei tifosi ritengono che per esempio il giudizio, le sentenze su Calciopoli nel 2006 siano sbagliate. Sì. Poi che la maggioranza dei tifosi pensa che quando vede gli errori arbitrali pensa male, uh-huh. Cioè non pensa che siano per errore, cioè per caso quegli errori, non sono fatti in buona fede. Allo stesso tempo la maggioranza dei tifosi pensa sostanzialmente che lo scandalo delle scommesse, il 55% dei tifosi, riguardi molti giocatori e anche le società, cioè siamo al 60% poi alla fine, per cento, cioè, eppure sono tifosi, cioè non è che questo metta in discussione il loro essere tifosi. Assolutamente, non è che dicano tutto ciò mi fa schifo, anzi, sono le componenti che abbiamo già visto, sono cresciute maggiormente nell'ultimo anno, cioè il come, ha ragione lei, il come viene dopo. Il problema sembra che sia oggi vincere, il come dipende dal risultato. Se il risultato non mi soddisfa, allora il come diventa un problema, ma nessuno mette in discussione la propria appartenenza per questo. È un po' come dire, noi siamo potenzialmente un paese in curva nel quale, sì, le distanze ormai tra, dove siamo allo stadio sempre, perché la maggioranza ormai dei tifosi non va allo stadio, certo, sta a casa propria e da lì, come mostra anche la nostra, però in questo modo lo stadio è trasferito nella casa di tutti, oggi, certo, non c'è un giorno nel quale non ci sia una partita, e quando, come adesso, c'è la pausa della nazionale, si entra in sindrome da astinenza, insomma, perché la nazionale è un'appartenenza, va bene, ma la squadra è un'altra cosa, cioè, parlo proprio dai dati che mi trovo, è un'evoluzione secondo me abbastanza sensibile. Mi spiace non aver fatto indagini prima del 2005, perché credo che ci saremmo trovati di fronte a un quadro comunque sensibilmente diverso. E sarebbe interessante vedere appunto che differenze si sono prodotte nel frattempo, dato che c'è sempre almeno un ascoltatore curioso, in questo caso si chiama Aldo, scrive da Milano e dice e domanda, ma per chi eventualmente, per chi fa il tifo il professore, allora io la domanda gliela farei così: mi pare ci sia stato un noto personaggio che un giorno, sollecitato a rispondere sulle, diciamo, sulle proprie note caratteristiche. Questa persona è, diciamo, una persona molto importante, che ha molti incarichi, che fa molti lavori, che ha docenze di qua e di là, non solo in Italia. E dice: ma quindi a lei come piacerebbe essere definito? E questa persona ha risposto: bianco-nero, le altre identità sono tutte negoziabili. Sì, sì. Chi potrebbe essere questa? Mi ci riconosco, devo confessare, ma alcuni lo sanno, che questa è la risposta che ho dato in alcuni casi, ed è abbastanza vero. Io sono normalmente, riesco ad essere distaccato quando scrivo e parlo di politica, sì, non quando parlo di calcio. E a casa mia, visto che poi ho avuto anche qualche problema fisico, mia moglie mi controlla sia quando guardo le partite, sia quando ci sono altre persone, diciamo, di fede con... vede, ho usato la formula fede. Sì, certo, l'ho sentita. Distinta dalla mia. Sono poco tollerante, sono indubbiamente poco tollerante, e antropologicamente muto anche in modo piuttosto sensibile quando si discute di queste cose. Io, da lì la competenza, no? Direi. Da qui il fatto che mi limito a una sola indagine l'anno su questo argomento, perché non riuscirei ad avere il giusto distacco. Devo dire che seleziono perfino i miei collaboratori in base a criteri. In casa mia ho un figlio del Chievo, l'altro è bianco-nero, l'altro è del Chievo, credo in contratto con noi due, anche se abbiamo avuto delle discussioni dopo scommessopoli, non so come chiamarlo, perché non è possibile utilizzare come uomo immagine Bettarini, con tutto rispetto. Beh, questo sì, io personalmente, dato che sono dal 2001, da quando venne in Serie A, un simpatizzante del Chievo, quest'anno mi sono autosospeso dal tifo per un anno, sinceramente, dalla partecipazione. Sono riuscito, guardi la mia sportività, a vedere 2 anni fa insieme ai miei figli Chievo-Juventus, 1-0 per il Chievo, che ne meritava di farne almeno altri due, perché non ha fatto manco un tiro in porta, e con molto distacco. Molta sofferenza e molto distacco. Però vede, espiare fa bene, noi abbiamo espiato il passato a lungo in questo periodo. E adesso vi sentite pronti, più pronti per ripartire, più leggeri forse? Ma io come dire, sono troppi anni che aspetto, non è che mi illuda così facilmente. Diciamo che adesso attendo la domenica con maggiore speranza, ecco, sì, posso dire. La politica non mi dà tanta soddisfazione, no. Spero che oltre alla ricerca e agli studi anche la fede bianconera abbia qualche motivo per sorreggermi. Professor Diamanti, io la ringrazio in modo particolare, anche per questo outing, non del tutto inedito, ma insomma quasi. Non è del tutto inedito, mi si vedono gli occhi brillare di bianco e di nero. Certo, però questa frase è superba, bianco-nero, tutte le altre identità sono negoziabili, mi sembra di quelle che si possono anche tramandare. Grazie professor Diamanti. Di nuovo. Chiudiamo questo collegamento, ne apriremo tra poco un altro col professor Bordignon, che ci darà un po' in sintesi un po' di questi numeri, di questa indagine, ma nel frattempo, oltre ai vostri interventi in diretta, come sempre, qualcosina di attualità c'è, per esempio. Allora, facciamo così, per compensare questo bicolore bianco-nero di Ilvo Diamanti, visto che eccezionalmente su questi schermi c'è e sia pure una categoria inferiore, ma insomma c'è un Torino che è tornato in testa alla classifica del campionato di Serie B, anche perché finalmente guidato da un allenatore con la A maiuscola. Sentiamo il commento alla vittoria di ieri sera del Torino sul Grosseto da Ventura. Faccio i complimenti alla squadra per come l'ha interpretata, leggendo le situazioni, avendo la pazienza di saper soffrire significa non perché loro attaccavano, perché loro avranno fatto sì e no 4 cross in tutta la partita, ci avessero detto dopo 2 mesi e mezzo che avremmo di giorno feriale avuto 15-16 mila persone che tutto sommato applaudivano durante e anche alla fine, che poi eravamo primi in classifica, che avevamo la miglior difesa, che eravamo la squadra meno ammonita, eccetera eccetera, insomma mi sembra che siano segnali abbastanza confortanti. Questo era il commento del dell'allenatore del Torino, poi abbiamo da sentire, oltre al professor Bordignone e ai suoi numeri sul calcio tifoideo, abbiamo da sentire anche per esempio le prime parole di Pioli come allenatore del Bologna, Mihajlovic che ci presenta Serbia-Italia in programma domani sera e altre cose ancora. Nel frattempo dalla porta girevole che regola il flusso degli allenatori, atri, arrivi e partenze, è uscito Baldini, esonerato dal Vicenza, ed è entrato Gigi Cagni che da oggi sta già dirigendo in questo momento il primo allenamento del Vicenza e verrà presentato al termine dell'allenamento stesso. Allora, in attesa del professor Bordignon, Gennaro da Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, grazie per avermi chiamato. Io torno un attimo velocemente solo sull'intervento del professor Diamanti, sì, che lei ha gentilmente convocato. Devo dire la verità, sorpreso, felicemente sorpreso, un'analisi che condivido in pieno, molto seria, sul rapporto tra politica e sport, delle sinergie che sono nate, di chi ne ha approfittato, di chi ne ha un po' meno approfittato, insomma l'analisi va poi approfondita, ma veramente mi ha colpito. Volevo ricordare a lei solo brevemente un breve ricordo di Steve Jobs, morto ieri, sì, uno degli uomini che se anche ha poco a che vedere con il nostro sport ha però modificato la vita praticamente del genere umano. Ah, su questo direi proprio che non c'è dubbio, Gennaro, che sia andata esattamente così. La ringrazio di questo. Tanti argomenti possibili, forse possiamo sentire anche, in attesa di perfezionare il collegamento, sentiamo quel frammento in cui Mihajlovic presenta la sfida di domani sera tra Serbia e Italia. Quella partita là è stata una delle più brutte pagine dello sport serbo, quello sì, cioè, mi ha fatto soffrire, una delle poche volte, forse prima volta, che mi sono vergognato di essere serbo, ecco. Serbia Italia per me è un derby perché io sono serbo, però praticamente da quasi 20 anni che vivo in Italia, la mia famiglia è tutta italiana, perciò sicuramente una partita importante per me. Siamo collegati, come si diceva prima, col professor Stefano Bordignon. Buongiorno. Buongiorno a voi, Fabio. Non chiedo scusa, oggi sto anche facendo nessun problema. Sto facendo qualche errore di traffico da smaltire. Allora, con Fabio Bordignon, arriviamo ai numeri. Prima abbiamo sentito, lei per caso ha ascoltato l'intervento del professor Diamanti? Sì, sì, sono riuscito non dall'inizio, ma quasi tutta. Quindi con tanto di outing finale. Certo. No, in senso bianconero, tutti i miei collaboratori sono bianconeri, ha detto, questa è una condizione sine qua non, più o meno si è capito il tono, anche se era molto amabile e autoironico, quindi anche lei, immagino. Esistono delle eccezioni, però non sono io l'eccezione. Senta, no, quello che le chiedevo aiuto per i numeri, io li ho qua sotto gli occhi, però mi piacerebbe che fosse lei a enumerarli, soprattutto dal punto di vista variazioni. Allora, ci anticipava Diamanti che la squadra di gran lunga più amata dagli italiani rimane la Juventus, e mi pare che la percentuale rispetto allo scorso anno sia invariato, forse in leggera crescita. No, in realtà praticamente invariata, siamo sì, sul 29%, è in leggero calo rispetto a qualche anno fa, sì. Del resto diciamo ci sono stati eventi piuttosto rilevanti e diciamo le fortune calcistiche non sono state particolarmente rilevanti per quanto riguarda i colori bianconeri nell'ultimo anno. Siamo al 29% e tra l'altro almeno per le prime 3 posizioni della graduatoria c'è una singolare diciamo corrispondenza tra classifica del tifo e palmarès, nel senso che le percentuali richiamano un po' la contabilità dei successi in campionato. Sì, però non mi faccia lo Juventino ultra, ascolti. No, sto leggendo, Juventus 29, Inter 18, Milan 16, parliamo di percento, no? In ambito nazionale, non mi dica 29 anche lei. Perché magari poi torneranno a esserlo, ma al momento non lo sono. No, i numeri sono vicini al palmarès, ma non lo riflettono diciamo al 100%, questi sono gli scudetti rivendicati, evidentemente, mentre quelli ufficiali sono 27, siamo invece quasi esattamente al 18%, anzi in questo caso la percentuale è leggermente superiore, sono 18 gli scudetti, 19% nel caso dell'Inter, nel caso del Milan siamo al 16%, quando invece gli scudetti sono 18, si tratta di un dato che era calato negli anni scorsi, mentre è leggermente risalito. è risalito proprio negli ultimi 12 mesi, probabilmente in virtù del titolo per 100 l'anno scorso e arriviamo al 16 quest'anno. Dunque, due righe di conti, 29, siamo grosso modo a due terzi, no? Mi pare, due tifosi su tre appartengono alle squadre a strisce. Esattamente. Esattamente. Poi che cosa troviamo a seguire? Sotto a queste, al primo terzetto troviamo il Napoli al 9%, un grosso modo allineato al dato dello scorso anno, la Roma intorno al 7%, anche in questo caso siamo sostanzialmente su un dato pari a quello dello scorso anno, la Fiorentina e poi via via tutte le altre, dove diciamo le difficoltà di tipo metodologico ci consigliano di non dare numeri che magari rischiano di essere poco fondati. Qui stiamo parlando di un campione di 1300 casi con un intervallo di confidenza di poco superiore al 2%, per cui diciamo la prudenza metodologica consiglia di non dare i numeri sotto il 3%. Quindi lei ha già risposto a un ascoltatore che ha appena scritto, si chiama Davide Meli, sta a Milano, dice: ho dato un'occhiata all'analisi di Demos e al di là del grande interesse che questo studio suscita, mi piacerebbe chiedere al professore se non è possibile avere dati più completi anche le tifoserie più piccole, capire per esempio come le scalate di Novara, Cesena o la bella storia del Chievo abbiano influenzato le simpatie della gente. La risposta sua è: stiamo parlando di fasce di rilevazioni troppo difficili, se ho capito. Sì, bene. Magari molto rilevanti e molto concentrate sul piano locale. Qui mancano squadre, ad esempio, del calibro della Lazio, per dire. Certo. Evidentemente se il sondaggio riguardasse la regione Lazio avrebbe percentuali del tutto significative. Però appunto trattandosi di un campione nazionale, non possiamo scendere sotto certi numeri, perché rischieremmo, che ne so, di avere l'anno prossimo un dato completamente diverso semplicemente per oscillazioni statistiche. Certo. Ho sott'occhio un'altra classifica, che è quella al contrario e che lo stesso Diamanti ci ha anticipato prima, e cioè la classifica dell'antipatia. Beh, devo dire che anche in questo caso l'Inter mi sembra in crescita, Sì, è in crescita, probabilmente quello va un po' sulla scia dei successi degli ultimi anni, a livello nazionale e a livello internazionale. Dal 2005 in poi abbiamo un dato molto, molto significativo di crescita in questa specifica classifica da parte dell'Inter, che in passato era invece dominata dalla Juventus. Dalla Juventus. Un'inversione di ruoli anche da questo punto di vista. Evidentemente la classifica del tifo contro è quasi quanto ambita quanto quella del tifo pro, sostanzialmente, perché è sintomo di successi e di salute. Certo. Dal punto di vista dei titoli. Ma senta, è normale, certo, chi vince sempre ragione da una parte e chi vince diventa più antipatico dall'altra, è un automatismo quale, però ci sono degli automatismi, cioè nell'ambito di questo automatismo che più o meno è collaudato, i numeri fanno però sensazione. Per esempio vedo che il Milan in un anno, avendo vinto un campionato, è passato da 8 a 12.2 nella classifica di antipatia. È tanto, è come... Sì, evidentemente questa classifica è più fortemente influenzata da fattori di medio periodo, di breve medio periodo. L'Inter, pur non avendo vinto nell'ultimo anno, tranne un titolo mondiale molto rilevante, ma che va un po' sulla scia dei precedenti, cresce molto rispetto all'anno precedente, dal 16 al 20%, evidentemente la scia di successi, il ciclo che si è inaugurato nel 2006, frutta dal punto di vista delle antipatie. Certo. Interessante da questo punto di vista è un'altra elaborazione che abbiamo fatto analizzando le direttrici delle reciproche antipatie tra le tre squadre maggiori. Sì. Intanto dal 2005 ad oggi abbiamo un sostanziale capovolgimento della situazione anche da questo punto di vista. L'Inter era nel 2005, cioè prima di Calciopoli, la squadra più con la tifoseria più arrabbiata, quasi la metà, più della metà affermava di avere una squadra antipatica, e nella stragrande maggioranza questa squadra era la Juventus. Oggi anche da questo punto di vista abbiamo un'inversione di ruoli, cioè è la Juventus una delle squadre più con la tifoseria più arrabbiata, nella maggior parte dei casi le antipatie corrono sull'asse Torino-Milano, sponda nerazzurra. E allo stesso modo il Milan ha progressivamente riversato le proprie antipatie che in precedenza si indirizzavano verso la Juventus proprio nei confronti dei cugini nerazzurri. Io chiuderei da dove siamo partiti, ma stavolta con il dettaglio accennato in partenza da Ivo Diamanti, e cioè questa mappa completa della diffusione del tifo italiano, e cioè base 100, quanti sono aggiornati e quindi con le variazioni in percentuale quelli che si dichiarano tifosi di calcio e quelli che si dichiarano non tifosi? Perché il calo, il cambiamento è sensibile rispetto a un anno fa, non c'è dubbio. Abbiamo un calo significativo, nel senso che si passa dal 52% del 2010 al 45% di oggi, quindi un calo di 7 punti in un anno che evidentemente è rilevante come trend. Sottolineo però come la percentuale rimanga molto elevata anche a fronte, diciamo, di una credibilità del calcio molto molto bassa. L'avete ricordato voi in precedenza, i giudizi sui diversi scandali che hanno caratterizzato il calcio negli ultimi anni, da Calciopoli fino a Scommessopoli, i dati sono molto espliciti. Quindi, nonostante tutto, rimane questo zoccolo duro che ha le spiegazioni che voi avete richiamato. Da una parte, il prevalere della militanza sulla credibilità del calcio, e forse aggiungerei anche una spettacolarizzazione del calcio, cioè il calcio che vale più come spettacolo, per l'appunto fenomeno mediatico da vedere, indipendentemente dal fatto che sia vero o falso, quasi una sorta di reality. Certo. Da questo punto di vista. Allora, grazie anche a Fabio Bordignon per il suo intervento. Grazie a voi. Starò in campana per la vostra prossima indagine, perché io trovo che sia abbastanza interessante controllare queste mappe, no? Vedere quali sono le variazioni e da lì provare a risalire a come abbiamo fatto oggi, al perché e ai per come. Tra poco l'ultima parte con almeno un paio di contributi interessanti da ascoltare e il maggior numero possibile sintetici, vi prego, di vostri interventi in diretta. Scrive Giovanni da Bergamo, mi sembra interessante questo, ma una domandina, dice: nel censimento 2011 a proposito della propria squadra della squadra di calcio del cuore, non la potevano inserire? Sa che, Giovanni, sa che non è sbagliata questa, le dirò, e sa che secondo me Ivo Diamanti sarebbe molto ma molto d'accordo su questo. Sentiamo Nicola Filippone e il suo 6 ottobre. Sembra ieri. 6 ottobre 1991. Il Milan di Fabio Capello inaugura quello che sarà il periodo più lungo di permanenza al vertice della Serie A. Nella sesta giornata i rossoneri sconfiggono per 2-0 l'Atalanta con reti di Van Basten e Albertini e raggiungono al primo posto il Napoli di Zola e Careca. Il primato rossonero durerà oltre 2 anni e precisamente 72 giornate consecutive, fino al 31 ottobre 1993. Quando gli uomini di Capello smarriranno momentaneamente la testa della classifica, perdendo 3-2 contro la Samp a Marassi, circostanza in cui Ruud Gullit realizzerà un decisivo gol dell'ex. Ha chiamato Alessandro da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, grazie. Volevo chiederle, secondo lei, se riguardo al primo posto nella classifica di antipatia dell'Inter, se oltre ai risultati che chiaramente hanno un effetto, se non c'è anche è una conseguenza anche di certi atteggiamenti proprio della società non esattamente simpatici, e soprattutto da parte del presidente, che in più circostanze, soprattutto negli anni di Mourinho, che è stato un maestro nell'attirare antipatie, invece di prendere le distanze ha un po' cavalcato l'onda dell'odio quasi ricercato. Mi viene in mente, tra l'altro è un episodio anche abbastanza di attualità, quando Ranieri, allora allenatore della Juventus, venne insultato, si può dire, sia sul piano professionale che personale, e richiesta all'Inter e alla società di prendere in un certo senso le distanze. Morata invece, quasi con un piacere, anche secondo me anche forse un po' infantile, si schierò platealmente dalla parte di Mourinho. Non saprei Alessandro, e soprattutto non, sinceramente non, meno rinvanghiamo queste piccole miserie che appartengono a tutti, intendiamoci, poi qualcuno magari può avere esagerato più di altri, ma meno le rinvanghiamo meglio. Già ce n'è tante di attualità, di queste piacevolezze che almeno cercherei di non dilettarsi in speleologia. Visto che lei ha chiamato da Bologna, sentiamo il debutto, non ancora agonistico, ma insomma il debutto in serie di presentazione del nuovo allenatore Stefano Pioli. Sono molto, molto contento e molto soddisfatto di avere questa opportunità, molto soddisfatto e contento che la società mi abbia cercato, anche perché io sono cose che succedono e che si sentono, ma io ho sempre dentro di me, ho sempre saputo, ho sempre sentito che prima o poi avrei allenato il Bologna. Quando succedono queste situazioni c'è qualcosina che non funziona, ma io sono assolutamente, se ho scelto questa opportunità, questa possibilità, l'ho fatto perché ritengo che Bologna è una piazza molto importante, molto gratificante, perché ritengo che la squadra abbia tutte le possibilità per togliersi delle situazioni, per fare un campionato dignitoso. Un altro Alessandro, dalla provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io il suo nome non lo so perché non lo sento mai. Non è grave. Vada. Dica. Spero di essere perdonato. No? Allora, ho sentito solo in parte le considerazioni socio-politiche e calcistiche del professor Diamanti. Sì. Che in quanto credo che sia un sociologo questo signore. Insomma, insegna anche a Parigi questa materia tra sì, le... sì, ma non è che i francesi, insomma, io diciamo sono legato un po' alla vecchia Francia, le modernità sociologiche non mi hanno mai. Ma probabilmente io mi sono perso una parte, che ne ho sentito solo una parte delle sue considerazioni di questa storia dell'appartenenza. Allora, l'appartenenza secondo me nell'individuo di questo tipo di necessità di appartenenza. Politicamente uno sceglie o si è in grado di scegliere in base a degli interessi, a una politica che preservi libertà, opportunità e civiltà, naturalmente. Se poi la maggior parte della gente si innamora facilmente delle dittature o delle scorciatoie, per cui è una sociologia da poveracci, diciamo, no? E calcisticamente poi è ancora più inspiegabile, no? Perché sentire di appartenere a una squadra, poi soprattutto il calcio, per quello che è diventato sul piano anche un po' affaristico, un po', cioè, sinceramente adesso io non ne sono proprio, non è che non ho niente contro il calciatore in sé o il calcio, ma voglio dire, ci siamo solo noi e gli spagnoli che comprano giocatori e spendono centinaia di miliardi di lire o milioni di euro. No, Alessandro, ci sono fior di popoli, compreso il popolo britannico, che a questo genere di peccati indulgono. Ci sono i francesi, e insomma, ce ne sono altri, se è soltanto per quello. A me la parte interessante, sembrava più interessante dell'analisi del professor Diamanti, sembrava proprio quella della, come dire, della calcistizzazione della politica, che non è un fenomeno inedito, ma che indubbiamente non è un fenomeno da poco, no? Perché ormai è diventato un po' così. Cioè, leggo, non so, mi scrive Denis da Treviso questa mail: premesso che in questo giro le convocazioni nazionali contano poco, ma Osvaldo che c'entra? E allora perché non Matri, Borriello, Pelissier, Moscardelli di Natale, no? Non so, Denis da Treviso mi ha fatto venire in mente un noto leader politico, statista Insigne, che perché mi sembra di sentir dire che si fida di più di Grilli, questo, no? Che non di Osvaldo, anche senza dito medio, per dire. Mi pare che sia proprio sia stato uno slittamento, non so quanto voluto, e un'identificazione verso il calcio, ma verso il calcio ultra, verso il calcio basso. Non quello che magari ci diverte pure. Gianluca, Napoli, buongiorno. Buongiorno, gente, proprio che siamo da Napoli, una cosa velocissima. Volevo dire, essendo che io sono tifoso della Juventus, nel corso degli anni ho subito improperi di tutti i livelli, perché molti non accettano il fatto che io sono della provincia di Napoli e tifo per la Juve. E sulla scorta di questo faccio anche fatica a condizionare mia figlia alla Juventinità, benché io sono un grande appassionato. Volevo sapere se hanno fatto bene a fare queste cose, questi napoletani con me, e cosa ne penso. Beh, cosa vuol dire Gianluca? Mobbing o semplice sfottò? Agguati di cosa stiamo parlando? Perché di fare la Juve con una sorta di tradimento anche a livello di campanile, robe, anche cose anche abbastanza brutte ho subito. Vabbè, se sono cose brutte, voglio dire, è evidente, non Cioè io credo che in questi casi, anzi, la diversità dovrebbe essere apprezzata, no? Almeno a me è sempre capitato così, anche se ovviamente è esposta, particolarmente esposta allo sfottò, alla piccola polemica, ma insomma, se restiamo in quell'ambito sì, se no non stiamo più parlando di sport o di politica, se no parliamo di educazione e basta, e quindi cambiamo completamente piano. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.